ti amo. Oh, come ti amo, amore mio. E il cuore mio esce dall'oblio con te. Ci troveremo assieme come due amanti, due cioccolatini con in mezzo la crema. Noi siamo contro il sistema, contro chi ci vorrebbe soli e tristi. Siamo quei problemi che tra noi due, quando siamo insieme, non esisti. Non esisti problema o nessun'altra persona. Esistiamo noi due, amore. Te chiedo in sole ore portarti nel mio cuore. Siamo come un seme perfetto che metterà al mondo il figlio l'eletto. Destination Born, Baby Born Day. E siamo come equalizzatori esterei che fanno misteri veri la sera che scleri. Siamo come due amanti perfetti, siamo senza difetti. Siamo due bellezze che si incontrano in molte ricchezze dentro e fuori. Voleremo in allori senza bugie. La ricchezza non ci dividerà, ma ci unirà ancora di più. Che sia quella del cuore, quella della tasca, non importa, resta. Non importa, butto via sti soldi, li lancio fuori dalla macchina in corsa. Rimango qui come una Opel Corsa scassata contro il muro del mio cuore, amore. Siamo come due chimere che si sfiorano per ore. Tu batti il mio cuore, batte il mio, batte, batte il tuo e batto anch'io. Batte il tuo e poi il mio. Sappi che vorrei farti battere il cuore per l'eterno, un tempo fisso, molto calmo. Ti rilasso, vorrei soltanto abbracciarti in un tranquillo collasso di emozioni, tesoro. Siamo una corona d'alloro, due poeti in frastuono. Siamo come la vita che si misura con una matita scritta su un foglio. Ti voglio per sempre, ti amo, ti adoro, ti voglio. E la verità che stasera ci incontreremo e prenderemo un treno e una nave dell'amore. Love Boat Radio.